Beh, la visita di Dos Santos, del presidente dell'Angola negli Stati Uniti, rientra in un rapporto che già esiste da anni fra l'Angola e gli Stati Uniti, soprattutto con la caduta dell'Unione Sovietica. Dos Santos si è appoggiato molto negli ultimi anni con gli Stati Uniti. È evidente che l'Angola aveva bisogno di un alleato forte a livello internazionale. In questo momento la questione più importante sul piatto è il petrolio angolano, cioè la crisi medio orientale ha fatto salire, come sappiamo, il barile del petrolio alle stelle, e quindi questo porta gli Stati Uniti a doversi approvvigionare di petrolio in altre parti del mondo, non solamente nell'area medio orientale. Gli ultimi sabotaggi in Iraq hanno fatto diminuire la possibilità di produzione di barili, e mentre sappiamo che l'Angola addirittura è un paese che può aumentare moltissimo la sua produzione petrolifera, e quindi oggi più che mai l'alleanza fra Angola e Stati Uniti è un'alleanza non soltanto geopolitica, geostrategica, ma diventa anche geoeconomica. Ecco, la situazione dell'Angola è sicuramente migliorata rispetto a qualche anno fa, perché la pace sta portando soprattutto la possibilità di lavorare all'interno. Non è più tutto concentrato sulla città di Luanda, anche se purtroppo la popolazione non fa ritorno verso le campagne. Nonostante questo, l'Angola rimane in una situazione di fortissima povertà e di fortissimo disagio sociale. Non è un caso che in una città di Luanda la delinquenza comune, e quindi l'emarginazione giovanile, è aumentata negli ultimi 2 anni. Questo è un fenomeno che a noi del VIS preoccupa particolarmente, perché cerchiamo di lavorare soprattutto per i giovani, soprattutto per i più poveri, quelli a rischio di emarginazione sociale.